9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 11 febbraio. Per chi crede alla Madonna di Lourdes, il punto che ci poniamo oggi è, partendo dall'analisi dell'ennesima giornata terribile in Egitto, l'ennesimo spiazzamento che i servizi americani e l'amministrazione americana dà al mondo e soprattutto agli egiziani che protestano, perché ieri abbiamo passato metà della giornata a seguire la CIA che aveva diffuso nel mondo la notizia che Mubarak stava mollando. Era esattamente il bis di quello che è avvenuto nel giorno dal 1 al 2 febbraio. Anche allora l'America è rimbalzata, è avvenuto anche oggi. L'instabilità con questi strappi, quando c'è un paese che da settimane ribolla in piazza Tahrir, non può che accrescersi, e quindi questo primo filone della nostra riflessione: cosa attendersi da questo Egitto, come si spiega che gli americani forzino così tanto e abbiano una valutazione così abbastanza poco realistica della situazione con i militari e Suleiman il capo del servizio, che invece vogliono una transizione lunga e ordinata, tenendo conto che Israele e paesi come Angela Merkel vogliono una transizione ordinata. Gli americani danno questi colpi di accelerazione che scuotono ancora più profondamente il paese, portano la forza del regime a reagire ancora più duramente, e però la situazione rimane nello stallo. Da questo primo problema arriviamo poi a un altro problema. Questa instabilità della sponda sud del Mediterraneo, e soprattutto di un paese come l'Egitto, che ha 80 milioni di abitanti, che cosa può provocare per quanto direttamente riguarda il nostro paese? Può portare a un'incandescenza nuova del fenomeno che già tante volte ha diviso e animato di polemiche il dibattito pubblico italiano, cioè l'immigrazione? Siamo davvero nelle condizioni che rappresentiamo spesso di così grave allarme e di così irrisolta condizione di integrazione e approntamento di servizi per quello che riguarda gli immigrati? Affronteremo anche questo secondo problema, ed è su questo soprattutto che vi chiedo di telefonare, di dirvi come la pensate, perché è uscito un rapporto, un transatlantic trend dedicato proprio all'immigrazione nei diversi paesi europei, che secondo me vi stupirà, perché le tensioni sono molto più elevate in altri paesi che noi siamo abituati a considerare molto meno, per questo dibattito italiano che è sempre autocentrato su toni di autopolemica. E con questi sondaggi alla mano capiremo perché pochi giorni fa il premier britannico David Cameron ha pronunciato un discorso che ha fatto parlare molto, dicendo il multiculturalismo, che era la bandiera del modello post-imperiale Commonwealth britannico con gli immigrati, è finito, e io volto pagina, voglio l'integrazione basata sul rispetto della nostra lingua, della nostra identità britannica. Capirete, dati alla mano, perché. Quindi chiamate per dirci che impressione avete sulle possibili nuove tensioni per l'immigrazione. Avete visto che il ministro Maroni in questi giorni non ha risparmiato gli allarmi in diverse riunioni internazionali, ha sottolineato di temere che dalla Tunisia instabile e dall'Egitto possano venire anche nuclei di Al-Qaeda. Ma ora cominciamo con il nostro primo ospite, che è Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali alla Cattolica di Milano e che saluto. Buongiorno professor Parsi. Allora, tentiamo di capire, la domanda gliela faccio esplicita prima di tentare di analizzare che cosa sta succedendo e che transizione attendersi in Egitto. Come mai secondo lei gli americani per l'ennesima volta accelerano così tanto, quando invece la reazione dei militari, dei Suleiman, il capo dei servizi, sembra una cosa così forte? Si vuole da parte loro una transizione ordinata il più possibile, coloro che controllano fino a settembre. La giustificazione è che altrimenti non si possono ottenere nuove presidenziali con modifiche costituzionali a cui coinvolgere tutti i partiti dell'opposizione, compresa la Fratellanza Musulmana, e dicono: se noi ci liberiamo del presidente Mubarak non c'è nessuno che può controfirmare le modifiche alla Costituzione stessa. È ovvio che è una scusa, ma insomma è una scusa per dire: noi non molliamo. Perché l'America è interessata invece a dare queste spallate che potrebbero liberare, per quello che si capisce di qua, energie ancora meno governabili per la transizione? Ma intanto l'impressione è che l'America aveva la sindrome di quelli che si svegliano tardi e quindi poi restano, diciamo così, a inseguire gli eventi fino a quando non riescono a calmarsi loro innanzitutto. L'America è rimasta sorpresa, come tutti e più di tutti, visto le leve che ha di informazioni su quel regime, da quello che è successo nelle ultime 2-3 settimane. E a questo punto ha cercato, se avete fatto caso, di perseguire politiche le più diverse nell'arco di veramente 15-20 giorni, dal fingere che non succedesse niente, discorso dello Stato sull'Unione di Obama, a appoggiare la transizione morbida, a appoggiare la piazza. Ieri l'America ha fatto un errore enorme, ed è il secondo errore, che è sottovalutare il ruolo dell'onore che questo concetto gioca nella cultura politica araba e nelle sue leadership. Trattare Mubarak come se fosse un Somoza del Nicaragua, e trattare l'Egitto come se fosse l'Honduras, con tutto il rispetto per questi paesi, è stato uno schiaffo che la leadership non poteva accettare. E ieri l'America ha sottovalutato, nel terzo elemento, un dato di informazione fondamentale, che i paesi del Golfo hanno detto a Mubarak: noi mettiamo i soldi se l'America toglie i suoi finanziamenti. A quel punto credo che Mubarak avrebbe potuto parlare con i militari, con Suleiman, dicendo due cose: intanto non siamo presi per il collo dagli americani, la seconda cosa è: ma voi vi fidate di questi che ci hanno scaricato in 3 settimane, siete convinti che questi poi faranno qualcosa per mantenere l'ordine, il senso dello Stato egiziano, l'egizianità, oppure finiremo come al solito con gli americani che sono convinti di fare il bello e il cattivo tempo in casa altrui, ma poi non sono disposti a metterci la faccia su questa cosa qua? Io sono molto d'accordo. Quello che mi colpisce sono due cose, poi arriveremo alla strategia o alla debolezza, alla mancanza di strategia europea, però quello che mi colpisce è la rapidità con cui gli Stati Uniti insomma hanno per da decenni costituiscono il partner obbligato numero uno, coloro che hanno armato con pacchi di miliardi di dollari le forze armate egiziane, che sono un grande presidio di stabilità e sicurezza. Lo dico per gli ascoltatori che dicono: ma che cinismo dire stabilità e sicurezza, le forze armate egiziane sono gli strumenti di controllo da parte del regime. D'accordo, io ragiono in termini in questo momento geopolitici, non voglio mancare di rispetto alle aspirazioni di libertà e di democrazia, però credo che gli anni dopo il post 11 settembre ci ha insegnato che questa idea occidentale della democrazia che prescinde dalle storie e dalle culture, forse è meglio se ci andiamo un pochino più piano, visto quello che ci ha indotto a fare con gli interventi in Iraq e Afghanistan. Alla luce quindi di tutto questo, con grande rispetto dico: ma com'è possibile che chi ha conosciuto e sostenuto per tanti anni il regime e le sue forze armate, proprio di fronte al fatto che le forze armate si mettono a fare da garanti, sia portato a sottovalutare che per paesi come l'Arabia Saudita, le monarchie del Golfo, la Giordania, cioè insomma i paesi che siamo abituati a considerare, a maggior ragione nel post 11 settembre, come presidi di interlocuzione a più affidabile, ecco, rispetto ad altri paesi che hanno invece la deriva islamista in casa. E com'è che gli americani non capiscono che sono esattamente questi paesi, professor Parsi, quelli che sono i meno interessati, più preoccupati al fatto che in poche ore salti tutto il tappo e non sia in qualche maniera ordinata la transizione? Che cosa avviene secondo lei nella testa dell'amministrazione americana, del Dipartimento di Stato? Lei ci ha detto: inseguono un po' gli avvenimenti, ma oramai sono settimane che la cosa è in corso, o è un cambio di politica? L'America migliore, la politica estera dell'America migliore è sempre stato un impasto di idealismo e realismo, di valori che vengono perseguiti con fiducia e contemporaneamente di presa d'atto delle situazioni geopolitiche. Purtroppo anche l'America peggiore è un impasto di idealismo e di realismo. In questo momento diciamo così che il cocktail sta venendo particolarmente male. Su questo aggiunga che sicuramente questa amministrazione, che è in crisi in termini di capacità di performance di politica estera, in particolare in crisi in Medio Oriente, ha sicuramente un'amministrazione da un taglio ideologico diverso, ma non meno ideologico di quella dell'amministrazione Bush. Questo noi lo sottovalutiamo semplicemente perché a molti degli osservatori l'ideologia, diciamo, la visione di Obama è più vicina, più consentana di quella di Bush. Esatto, però questo poi non significa che produca risultati migliori, magari è migliore dell'esposizione, ma nei fatti però. Sì, ma il problema è conseguire il risultato. E il terzo elemento, quello che va detto oggettivamente, l'America è una democrazia, davvero c'è una democrazia, che significa che i cambi di amministrazione, tanto più quando sono cambi tra amministrazioni molto connotate dal punto di vista politico ideologico, producono decisioni che vanno sulla testa delle burocrazie e anche degli esperti, per così dire. Questo è il bene, è il brutto e il bello dell'America, però questo è un dato con cui fare i conti. Capiamo se... dice, sì. Quello che lei dice lo condivido pienamente, nel senso che il rischio di questa politica è che tutti i paesi che in qualche, tutte le leadership che in qualche modo contano sull'America, comunque vada a finire la questione dell'Egitto, da oggi conteranno meno. Comunque vada a finire l'Egitto, il nuovo Egitto che uscirà sarà meno condizionabile, meno sudamericano di quello in precedenza, sia che vinca il regime sia che vinca la piazza. Sono molto d'accordo, la piazza condizionale, esatto. Io comprendo benissimo i blogger, i giovani e anche i disoccupati, insomma tutto ciò che vediamo e che crediamo di capire a Piazza Tahrir. Poi c'è molto che noi non abbiamo gli strumenti per capire, no, non ci sono solo le reti dei Fratelli Musulmani con la loro fortissima presenza in ospedali, sanità eccetera eccetera. Insomma, è complicato capire la profondità di un paese come l'Egitto. Io sono rimasto molto colpito nel vedere come all'interno delle sue università tutto è cambiato moltissimo negli ultimi 20 anni. C'è una radicalizzazione molto forte che noi secondo me non siamo in grado di capire. Io diffido molto dei colleghi che sono piombati in questi giorni lì e vi spiegano, cari ascoltatori, che tutto è pronto per una transizione democratica, liberale. Ci sono questi vengono intervistati alcuni docenti che parlano un perfetto inglese. È vero, l'Egitto non è l'Iran, però tutto sommato io sono comunque preoccupato. La cosa che mi chiedo è questa: l'Europa con Angela Merkel invece, per una volta almeno mi sembra che nell'analisi comparata rispetto a questo stop and go americano, ha assunto una posizione più ragionevole, più moderata. Quando l'America ha chiamato l'1-2 febbraio dicendo in poche ore i leader europei hanno chiamato la Merkel, hanno chiamato Sarko, hanno chiamato David Cameron, adeguatevi, dite subito che come l'America in poche ore Mubarak se ne deve andare, Angela Merkel ha detto no, un momento, aspettate un secondo, e non ci sono state queste prese di posizione europee. Secondo me è stato saggio. Chiedo al professor Parsi, in tutto questo, sia pure con un maggiore realismo rispetto a questa approssimazione americana, l'Europa sta facendo qualche cosa oltre che aver voltato nel recente passato le spalle alla Turchia di Erdogan, che a questo punto non ha sbagliato, scusate a chi siete in ascolto, non ha sbagliato a immaginare di avere un ruolo più musulmano e più indipendente dalla NATO e dagli Stati Uniti, perché alla luce dei fatti il governo turco avrà ancora un maggior sostegno in questa linea, l'Israele sarà più isolato e l'Iran sarà un pochino più forte ancora. Questo è il mio bilancio. L'Europa di fronte a questa, secondo lei, come si sta portando? Intanto l'Europa, l'invito alla prudenza da parte europea è una delle cose che è nelle corde dell'Europa, per cui abbiamo giocato una partita migliore, perché il catenaccio e il contropiede, cioè lo schema con cui giochiamo nel mondo, per cui quando sembra lo schema più appropriato sembrano dei fenomeni. C'è l'elemento poi del distacco dagli Stati Uniti, cioè sono passati 2 anni quasi, dall'insediamento di Barack Obama, grandi speranze, grandi aspettative. Se mettiamo sulla carta quello che è successo, c'è un progressivo allontanamento da parte americana nei confronti dell'Europa. L'Europa è giudicata sempre meno centrale, quindi quando qualcuno ti considera meno centrale è difficile che poi quando ti chiedi di fare una cosa tu dici ok, ti seguo anche se sono un po' in disaccordo. C'è grande preoccupazione poi europea nel senso del caos geopolitico che riguarda il nostro vicinato, cioè il Mediterraneo è il nostro Rio Grande, il mondo arabo è il nostro Messico, per cui non è che possiamo stare qua a seguire direttamente lo sbaraglio. E ultima cosa altrettanto importante, in qualche modo l'Europa sa che se il conflitto, se la tensione mediorientale esplode, se l'ordine salta completamente, se dovesse esserci una guerra tra Israele e il mondo arabo, da un lato noi saremmo oggettivamente in prima linea, ma altrettanto dall'altra parte sappiamo che il sostegno a Israele non sarebbe così semplice nei confronti di opinioni pubbliche abituate da decenni a una interpretazione della regione in cui le ragioni della sicurezza di Israele sono sempre meno rilevanti, sempre meno accettate, sempre più controvoglia. E quindi uno scenario di conflitto arabo-israeliano allargato in assenza della presenza effettiva americana ci preoccuperebbe moltissimo. L'America sa che avrebbe un riflesso probabilmente condizionato di sostegno a Israele. Gli europei non vogliono andare a vedere questa carta qui, e secondo me fanno bene, perché anche Israele in questo momento ha bisogno di un minimo di respiro per poter trovare la forza, il coraggio, lo sguardo lungo per cambiare la propria politica nei confronti del suo vicinato e dei palestinesi. Tutto il caos a noi non può che preoccupare. In questo caso abbiamo fatto il minimo sindacale, però non dimentichiamoci che abbiamo fatto pochissimo in termini di politica euro-mediterranea davvero. L'Europa continua a essere una grande realtà politica, suo malgrado, affacciata sul Mediterraneo. Allora, le agenzie informano che è atteso tra poco un nuovo comunicato dell'Alto Consiglio Militare, i vertici delle Forze Armate egiziane, che da ieri sera è riunito in permanenza per garantire una pronta e immediata reazione a qualunque tipo di problema. Ci sono nuove note ufficiose che provengono dall'amministrazione americana che dicono fortissimamente deludente l'atteggiamento assunto dalle Forze Armate. Si va a una nuova giornata ispirata a un vero braccio di ferro, perché la cosa più impensabile, almeno fino a poco tempo fa, è di vedere di constatare che i manifestanti sono invitati a essere più duri, a esporsi, come puntualmente avvenuto all'indomani del 1 e 2 di febbraio, quando l'America ha fatto la stessa cosa, e all'epoca, se ci pensate, che poi sono avvenuti i primi morti, quei filmati terribili degli egiziani che hanno offerto il petto e si sono poi trovati colpiti da i sostenitori del regime. È allora che le forze armate hanno per la prima volta consentito ai miliziani del partito di fare irruzione a Piazza Tahrir, e avete visto veicoli dei pompieri che travolgevano manifestanti. Io temo che da tutto questo, da questo atteggiamento americano, nel giro di poche ore assisteremo di nuovo a cose simili, perché mi chiedo come si possa sottovalutare l'importanza che le forze armate di sicurezza hanno sempre avuto dai tempi di Nasser, poi ai tempi di Sadat e di Mubarak, tre diverse declinazioni ma fortissimamente nazionali dello Stato e della presa delle forze armate sulla transizione e sull'impostazione fondamentale del paese. Credo che siano gravi errori di approssimazione. Se per recuperare politica e sostegno sul fronte domestico e interno gli americani ragionano come troppo spesso si fa in Italia, il danno può essere 100 volte peggiore, perché la mia opinione è che questi cambi di regime sono benvenuti, ma vanno immaginati con una sicurezza e con un ordine che non sono misurabili con i criteri europei o della democrazia americana. E se non ci hanno insegnato questi 10 anni, almeno questo, 10 anni di guerra nel nome esportiamo i nostri valori sulla punta delle baionette, interventi che pure io ho sostenuto, ma se non ci hanno insegnato questo, mi chiedo che cosa ci abbiano insegnato. È vero che la potenza europea non è probabilmente una politica neanch'essa, e che qualche errore, a mio giudizio, lo abbiamo commesso profondamente verso la Turchia. So che molti ascoltatori su questo sono polemici con me, dicono no, è molto più giusta la posizione assunta dalla Merkel e dai francesi di dire la Turchia non ha le carte in regola per l'Europa. Io, conoscendo un po' la Turchia, ho l'impressione che noi abbiamo aiutato potentemente chi voleva mettere nell'angolo sempre di più l'opinione pubblica laica, l'intellettualità laica, l'accademia laica, il mondo degli affari laico turco, che erano molto forti. In questo modo noi li abbiamo privati di un'interlocuzione, cioè l'approdo condizionato a verifiche in Europa, e credo che in questo la politica di Erdogan, che pure a sua volta non è un iraniano, ma insomma la politica del partito di Tayyip Erdogan, sia stata favorita da questo atteggiamento europeo. Io la pensavo in questo, per esempio, come Romano Prodi: bisogna avere un atteggiamento molto aperto e molto condizionante alla Turchia. Credo che al contrario noi stiamo regalando a questi paesi una pessima prova di come l'Europa e l'Occidente in generale ancora una volta possono dare una mano, possono apparire molto irresponsabili. E la conseguenza, a questo punto, io ringrazio il professor Parsi che ci lascia perché ha altri impegni, la conseguenza diventa anche quella diretta che si può scatenare su un paese che è limitrofo, è di fronte, è proprio a pochi minuti di aereo e a poche decine di miglia di mare poi dalla Tunisia, e comunque a un giorno di mare scarso dall'Egitto, che è l'Italia. Siamo esposti a una diretta recrudescenza sul fronte dell'immigrazione, dell'instabilità diretta nel nostro paese. Siamo esposti anche a quello che il ministro Maroni in questi giorni ha richiamato esplicitamente come un allarme caedista. Può venirci tutto questo direttamente sulle nostre coste, nel nostro paese, e soprattutto siamo un paese in questo che deve tornare a porsi un problema sul proprio modello di integrazione, su quello che non abbiamo fatto, e siamo un'eccezione in Europa, come spesso i giornali italiani descrivono ai nostri lettori e ascoltatori la nostra condizione. A tra poco, perché lo vedremo con questi numeri del Transatlantic Trend che è appena uscito, dedicato all'immigrazione. Sorpresa, ci sono paesi che stanno molto peggio di noi, che non si mica stiamo bene, ma cerchiamo di inquadrare meglio la realtà del problema italiano. Tra poco, intanto, pubblicità. Eccoci tornati in studio, abbiamo visto e dato conto, proseguite poi nell'edizione del giornale radio di Radio 24 a seguire l'evoluzione. Oggi sarà una giornata incandescente sicuramente in Egitto, visto le pressioni americane, e ci sono, c'è il Baradei, ricordate l'ex capo dell'agenzia nucleare, una delle figure da cui si attende di più per il futuro dell'Egitto, secondo me un po' sopravvalutata, non credo che abbia tutta questa gran presa che vi raccontano sui giornali italiani. Comunque El Baradei, che pure premeva per una transizione molto rapida, quindi in teoria dovrebbe essere tra coloro che dicono grazie America che ci dai un sostegno per mandare via Mubarak. El Baradei su Twitter manda in giro dei messaggi dicendo il paese esploderà in queste condizioni, le forze armate salvino l'Egitto, quindi vedete che il realismo prevale. Ma al di là di questo, che seguiremo nelle diverse edizioni del giornale radio, ci siamo posti il problema di che cosa può venire da questa instabilità direttamente tramite l'immigrazione, la ripresa dell'immigrazione e degli sbarchi sulle nostre coste. E io vi ho ricordato che non è un caso, secondo me, che proprio pochi giorni fa il premier britannico David Cameron ha preso una posizione, sapete, guida un governo di coalizione insieme ai liberal democratici di Nick Clegg, e ha detto il modello del multiculturalismo britannico è fallito, siamo forse il paese europeo che più deve rivedere rispetto ai fondamenti di come noi ci rivolgiamo agli immigrati e a questo patto che abbiamo fatto di rispetto delle lingue, delle etnie, delle proprie basi di riferimento, ha riprodotto enclave chiusa nel nostro paese. In altre parole, la Gran Bretagna, che ha certo più immigrati di noi, perché ha la tradizione post-imperiale, in Gran Bretagna c'è un saldo migratorio più o meno di 2,6 immigrati per 1000 abitanti, in Italia siamo a 2 immigrati per 1000 abitanti, sono una popolazione più o meno uguale da noi, gli immigrati sono ormai poco più del 7%, sono molto aumentati negli ultimi anni, in Gran Bretagna sono oltre il 10%, però David Cameron ha detto bisogna avere la verità, bisogna dire la verità, è la Gran Bretagna il paese messo peggio in Europa, è il più che deve rivedere il proprio modello, perché il fondamentalismo, l'islamismo ci hanno messo in crisi nel post 11 settembre e non ne siamo ancora venuti a capo, siamo più divisi di prima. Per questo quindi, per ragionare sul rischio italiano, ma in realtà una situazione di comparativa europea che ci consente di essere un po' più freddi nel capire chi ha sbagliato di più e chi avverte più tensione nel proprio paese sull'immigrazione, abbiamo due ospiti in questa seconda parte della trasmissione. Abbiamo con noi il professor Pierangelo Isernia, che insegna scienza politica ed è advisor del Transatlantic Trend Survey sull'immigration, che appena uscito e che ci illustrerà. Buongiorno professor Isernia. Buongiorno. E il mio amico strepitoso giornalista, collabora con il Foglio e con Panorama, William Ward, che poi ci parla invece del come e perché David Cameron ha fatto questa uscita. Buongiorno William. Ciao Oscar, buongiorno a chi ci sta in ascolto. Allora, professor Isernia, dovessimo sintetizzare in 3-4 minuti i punti fondamentali di che cosa ci consegna questo rapporto, questa indagine su percezione del fenomeno dell'immigrazione nei maggiori paesi europei e come l'Italia sta messa rispetto a chi sta messa peggio di noi, che cosa indicherebbe? Allora, la prima cosa che indicherei è che in tutti i paesi europei c'è grandissima preoccupazione per il tema dell'immigrazione e l'Italia è ai primi posti tra questi, insieme all'Inghilterra. La seconda cosa che indicherei è che in tutti i paesi europei la tendenza generale è a chiedere di sollevare frontiere, mura, ostacoli all'ingresso degli immigrati. La terza cosa che direi è che però quando si tratta di risolvere, affrontare il problema di come gestire, integrare gli immigrati che sono comunque entrati, che superano queste barriere che vorremmo porre, il tema del multiculturalismo è chiaramente non il tema preferito. Quello che si chiede dalle opinioni pubbliche è che gli immigrati quanto più si assimilino alla nostra cultura, ai nostri stili di vita, ai nostri modi di essere, rispettino le leggi e si integrino. A fronte di questo però c'è da dire anche che l'Italia da questo punto di vista è all'avanguardia, un'apertura nel accesso ai servizi sociali, alla salute, alla scuola, per coloro che accettano questo tipo di integrazione. Io, se mi consente un secondo, per far capire meglio a chi è a casa, mi ha colpito una cosa, io per questo ho dato questo taglio, non siamo messi peggio, perché io mi aspettavo di trovare l'Italia diciamo nelle posizioni di punta della percezione dell'intolleranza e del problema risolto. Quando invece ho visto, per esempio, che in Gran Bretagna a considerare un l'immigrazione un problema più che un'opportunità è il 65% ed è praticamente stabile rispetto al 2009, anno ancora peggiore di crisi economica. È chiaro che la crisi economica acuisce la sensazione di fastidio degli autoctoni rispetto agli immigrati, li fa considerare dei concorrenti impropri, e tutto ciò che sappiamo è legato alla paura quando le cose vanno peggio nell'economia. Però Gran Bretagna 65%, Spagna 53%, anche lì si spiega la percentuale così elevata perché c'è una disoccupazione molto elevata. Poi Stati Uniti 52%, Stati Uniti, il paese che siamo abituati a considerare come il melting pot per definizione. L'Italia viene dopo, insomma. E quando ho visto le risposte al sondaggio, per esempio sulla quantità di popolazione che dice dovremmo riservare la sanità o l'istruzione pubblica solo agli autoctoni, neanche agli immigrati regolari, e ho visto che in Gran Bretagna è 20% e più, beh, sono cifre che danno l'idea che è in ascolto di chi ha situazioni di tensione sociale con la gente molto arrabbiata su questo, molto più che da noi, professor Iserni, o sbaglio? Assolutamente, c'è anche da dire però che gli italiani hanno delle loro peculiarità. La prima di queste è che gli italiani, molto più degli altri paesi europei, sono preoccupati degli immigrati illegali. Diciamo, per gli italiani l'immigrazione è un problema in quanto è percepita come fondamentalmente provenire da flussi illegali piuttosto che legali, quindi sostanzialmente non regolata. Questa preoccupazione si riverbera su tutta una serie di altri aspetti, sul modo con cui trattare questi irregolari, sul modo con cui eventualmente integrarli e così via. Quindi è vero che gli italiani sono più aperti, però è anche vero che gli italiani hanno una percezione del problema diversa da quella degli altri paesi europei. Per loro l'irregolarità è il problema principale e di conseguenza non sorprende che l'elevare muri e porre frontiere sia considerata una priorità. Negli altri paesi dove invece il problema è piuttosto l'integrazione, ovviamente gli atteggiamenti sono differenti. Ci misuriamo con politiche migratorie che devono fronteggiare cicli migratori differenti. Noi siamo, come dire, all'inizio, mentre paesi come l'Inghilterra, la Francia sono, diciamo, da decenni ad affrontare questo problema. E allora andiamo un secondo a capire meglio perché chi ci si misura con questo problema per l'eredità imperiale del Commonwealth da sempre fa un punto a capo così forte come ha fatto David Cameron. William Ward, ci aiuti a capire perché di fronte a cosa il premier britannico ha condannato questa tolleranza passiva verso le altre comunità? Che cosa è successo? Che cosa c'è all'ordine del giorno di questa svolta britannica? Ma direi che ci sono due temi un po' diversi fra di loro che vengono, di cui uno viene affrontato più in modo più diretto dell'altro, cioè da una parte c'è proprio un'insofferenza molto diffusa, specialmente nelle città del centro-nord dell'Inghilterra, dove c'è già molto, molto disoccupazione in base a questa nuova crisi economica che appunto ha colpito il Regno Unito molto fortemente. Che questa insofferenza è nei riguardi di chiunque venga dall'estero per rubare, fra virgolette, il lavoro dagli autoctoni. E David Cameron di questo non ha parlato affatto in quel discorso che ha fatto qualche giorno fa a Monaco di Baviera. Invece la parte che l'altro filone importante della crisi dell'immigrazione, se vogliamo, è la tolleranza un po' così molliccia nei confronti dell'islamismo, che più che altro non è una questione di immigrazione, ma rivolto nei confronti già dei cittadini britannici, molti dei quali sono nati e cresciuti in Gran Bretagna, non sono come per esempio buona parte degli operatori dell'11 settembre che erano egiziani, sauditi, trasferitisi a studiare in Europa, in Germania soprattutto. I vari terroristi islamici inglesi come quei quattro del 7 luglio del 2005 erano cittadini britannici a tutti gli effetti quanto lo sono io. E questo è il problema che ha cercato di affrontare David Cameron. Già per dire la verità, Tony Blair, che all'epoca degli attentati terroristici del luglio del 2005 ha cercato di affrontare il problema anche come il suo successore laborista Gordon Brown, cercando sempre di trovare un modo per neutralizzare l'effetto molto negativo, molto nocivo degli estremisti, degli islamici violenti. si scopre invece che negli ultimi anni che il governo britannico di vari colori appunto ha dato una valanga di soldi a delle associazioni islamiche sperando di convertirli ad un'idea più liberale e più liberal, diciamo, della società, cercando di escludere i violenti. Quello che si è capito negli ultimi tempi, e il discorso di Cameron ha proprio imperniato a questa reso dei conti, è che ci sono molti estremisti islamisti in Gran Bretagna che, pur non essendo violenti, cioè non a favore del terrorismo o degli atti sovversivi nell'ambito nazionale, sono comunque... concorrono in responsabilità esterna, si direbbe in Italia, ai fatti peggiori dell'islamismo internazionale. Ed è proprio questo che questo va bene, una politica inventata dal governo laburista appunto di cooptare i buoni uffici della popolazione islamica abbastanza credente piuttosto che laica in Gran Bretagna, però viene collegato ad un problema appunto del multiculturalismo inteso come l'identità, lo stabilimento, lo sviluppo delle microcomunità fra di loro divise in compartimenti stagni, che lui vorrebbe cambiare del tutto. Esattamente. E quindi le due diverse componenti: c'è la crisi economica, ma c'è un fallimento di lungo periodo relativo proprio all'approccio con i leader delle comunità musulmane. Pensate in Italia a quanto stiamo tenendo sottotono. Io credo che ci sia una politica, la decisione di tenere bassa la cifra del calore politico su questo, sul dibattito che era aperto proprio, per esempio, ancora una volta sulla lingua con cui si devono tenere i culti musulmani nel nostro paese, che è uno degli aspetti fondamentali del fallimento della politica dell'integrazione sulla cooptazione dei leader delle comunità. In Gran Bretagna ammettono che non ha funzionato. Vi leggo una dichiarazione dibattuta dalle agenzie due minuti fa relativa alla presa di posizione del leader dell'Iran Mahmoud Ahmadinejad: con l'aiuto di Allah stiamo andando a un intero Medio Oriente senza Israele e senza Stati Uniti. Ecco cosa capita se poi dosiamo male il sostegno alle piazze rispetto a una condizione di fredda analisi di come si può ottenere una buona transizione in grado poi di portare a regimi meno impopolari, meno autocratici in quei paesi. Credere di adottare criteri occidentali dà una mano a chi in quella parte del mondo rappresenta ciò che è più distante da questi valori di libertà e di democrazia. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, qualche telefonata da far commentare poi con le conclusioni dei nostri ospiti, il professor Iserni e William Ward. Cominciamo con Stefano da Bari. Prego Stefano. Buongiorno. Ho l'impressione che questa, come altre trasmissioni che lei ha già condotto sull'argomento, vogliano farci credere che, o meglio, io credo che lei ci voglia far credere che la democrazia sia quasi un pericolo. Perché si ha tanta paura della democrazia? Io faccio credere, voglio far credere. Sì, ho questa impressione, perché lei o anche su qualche suo ospite sì. Ci sta facendo, ci dà questo quadro sì. dell'Egitto quasi pericoloso. No, ho capito al meglio la domanda. Credevo che mi stesse dendo della gente di Mubarak. Ho avuto per un secondo sono guardato allo specchio e ho detto: ma addirittura posso essere preso per un agente di Mubarak? No, la questione è questa. Guardi, chi segue ha seguito continuativamente tutto quello che abbiamo nel post 11 settembre e ha fatto un po' di studi anche prima e ha visto, magari conoscendo e frequentando ambienti culturali, accademici, politici di questi diversi paesi. L'Egitto ha una grandissima tradizione nazionale che è la culla della rivoluzione araba nazionale ai tempi del nasserismo. E io credo che abbia l'obbligo di informare l'opinione pubblica non a diffidare delle proteste. Io sto dicendo il contrario, sto dicendo che ad avere approcci purtroppo condizionati dalla politica interna, come avviene in questo momento secondo molti osservatori, io e il professor Parsi, come ha sentito, su questo la pensiamo insieme, l'amministrazione Obama è condizionata dal credere di dover cavalcare la protesta, quando la protesta in quei paesi o è in grado di ottenere processi ordinati, oppure rischia semplicemente di sfociare nel sangue, e per evitare il sangue, quando c'è una forte tradizione nazionale delle forze armate, magari si avrà una soluzione che, invece che essere più vicina alle richieste di chi sta in piazza Tahrir, degli studenti, dei disoccupati, di quel po' di opinione pubblica capace di ragionare su democrazia all'occidentale, dico quel po', perché se voi pensate che le opinioni pubbliche dei paesi nordafricani siano uguali a quelle europee e americane, sbagliate, questa è la mia opinione, sbagliate. Non stiamo parlando dell'Iran, però ci sono fenomeni, dalla Fratellanza Musulmana all'idea di una non di una democrazia rappresentativa, che convivono con chi è convinto invece di poter in Egitto sperimentare dall'oggi al domani forme di democrazia rappresentativa libera e aperte. Non sarà così, e quindi non è una diffidenza verso l'Egitto, non è la democrazia che è pericolosa, al contrario, sono i passaggi di regime che, privi di un'organizzazione e di garanzie certe, possono ulteriormente rafforzare i paesi come l'Iran, e possono ulteriormente rafforzare i regimi repressivi delle forze armate di sicurezza, che in quei paesi rappresentano da sempre gli interlocutori dell'Occidente e soprattutto degli Stati Uniti, pronti poi a mollarle da un momento all'altro, come se invece loro fossero i rappresentanti del partito Waft che da sempre combatte il Reis. Quindi questa lo dico con grande sincerità. Sentiamo Frederick da Treviso, prego Frederick. Buongiorno dottore, sì. Io parlavo dell'esperienza francese, che non è un problema di multiculturalismo, ma piuttosto un problema di non integrazione. Il multiculturalismo è stato superato, la non integrazione di una minoranza nata, cresciuta, sempre vissuta in Francia, che parla solo francese, che non si è integrata perché la Francia dai primi anni 70 non conosce più il piano impiego. Ecco, quindi il Federico secondo me fa bene a indurci a una riflessione sull'altro grande modello tradizionalmente alternativo a quello del multiculturalismo, cioè la forte integrazione nazionale francese, e però poi abbiamo visto anche lì le bandiere puntualmente riesplodere. Professor Isernia, da questo punto di vista, nel sondaggio, nel Transatlantic Trend, che cosa esce fuori? La sofferenza britannica l'abbiamo richiamata, era evidente in tutte le risposte, la tensione dell'opinione pubblica, ma sul modello dell'integrazione nazionale invece francese, in questa indagine? Allora, anche questa indagine mostra che il modello francese è anch'esso in crisi. I francesi sono tra i popoli sondati, ormai sono 3 anni che facciamo il Transatlantic Trend, quelli che quest'anno hanno avuto il calo maggiore in termini di tolleranza nei confronti degli immigrati, percezione del problema degli immigrati e così via. C'è da dire una cosa però, che noi abbiamo cercato di approfondire il ruolo che la crisi economica può aver giocato in tutto questo, e quello che abbiamo trovato è che nei paesi continentali europei la crisi economica non è un fattore potente nello spiegare gli atteggiamenti delle persone. Detto in altri termini, e qui per paragonare ad esempio l'Italia con l'Inghilterra, mentre in Inghilterra il 58% degli abitanti ritiene che gli immigrati siano minacciosi perché portano via il lavoro ai nazionali, in Italia questa percentuale è solo del 29%. E cose analoghe si hanno anche in altri paesi continentali. La crisi economica di per sé non si traduce in un aumento di preoccupazione per il tema degli immigrati. In Italia tipicamente questo è dovuto al fatto che il circuito del mercato del lavoro a quale, diciamo così, si rivolgono gli immigrati è probabilmente diverso da quello a cui si rivolgono gli italiani. Non a caso la maggior parte degli italiani ritiene che gli immigrati facciano lavori che noi semplicemente non vogliamo fare. Dall'altro lato c'è da dire che se non è la crisi economica un moltiplicatore di intolleranza, invece le differenze culturali sono potenzialmente molto pericolose. Devo dire che qui in Francia e in Inghilterra il tema dei musulmani, in genere dell'Islam, è un tema molto più sentito che da noi, e questo non deve far sorprendere, perché ovviamente lì il problema c'è da prima, ha una sedimentazione, mentre da noi è tutto sommato un tema nuovo. Quindi per quanto riguarda gli italiani, la preoccupazione nei confronti del mondo musulmano è di gran lunga minore. È di gran lunga minore. Come vedete, quindi, ecco i dati che io riportavo all'inizio. Cioè, l'Italia si autopercepisce sui giornali come se fossimo sempre agli occhi dei fori internazionali, sulla soglia dell'esplosione. Poi uno va a vedere, comparare i dati, poi non è così. Cioè, siamo un paese su questo molto più freddo, molto meno teso di quanto sembra. Non ho detto che non bisogna avere allarmi, però questo è il fatto. William Ward, invece, se uno riguarda la Gran Bretagna, ho visto che poi in realtà il governo, appena era entrato in carica, aveva dato un giro di vita ulteriore ai permessi dei nuovi immigrati, e poi la Gran Bretagna ha iniziato a sceglierselo un po' come fanno i tedeschi da sempre, cosa che in Italia è molto tabù, scegliersi gli immigrati per miglior preparazione. Questo, uno delle, appunto, delle promesse preelettorali dei conservatori era appunto di restringere ulteriormente il numero di emigrati oltre la zona, appunto, l'Unione Europea, il cui numero è già altissimo. Infatti per questo, Oscar, ricordiamoci che il Regno Unito e l'Irlanda sono gli unici due paesi dei 27 membri dell'Unione Europea non iscritti al Trattato di Schengen, cioè per bloccare quel flusso immigratorio soprattutto abusivo in Gran Bretagna, dove esistono grandi occasioni se non di lavoro, non più di lavoro visto appunto la crisi economica, ma anche dei benefit e welfare che sono straordinari per chi arriva e riesce a trovarsi un buco. A parte questo, il problema che i Tories hanno cercato di fare era di restringere ulteriormente appunto il flusso immigratorio più o meno legale da fuori dei confini dell'Europa. Solo che in gran parte le grandi industrie, specialmente quelle interessate alla ricerca, che in Gran Bretagna è un settore molto molto fiorente, e poi alla City, cioè le grandi istituti di finanza, le banche, le assicurazioni e tutte quelle altre istituzioni appunto finanziarie, alla City hanno gran bisogno di indiani, cinesi, eccetera, che portano con loro, se non una forte esperienza, almeno una potenziale cervellotica altissima. E di qui una cosa che in Italia invece continua a costare un tabù, mentre noi siamo dell'idea che bisogna aprire a tutti, e altrove ci si sceglie la migliore preparazione. Sì, non razzisti, si investe di più sulla qualità del capitale umano. Questa forse è la cosa che noi dobbiamo imparare dai tedeschi, dai britannici. Ancora, comunque, grazie al professor Parsi, al professor Iserni, grazie a William Ward, grazie in regia a Camillo Lauricella, a Sandro Marco Tulli in redazione e a Franco Piantrenita, grazie a cui vado in onda. Grazie ancora a tutti, in Regione Radio, appuntamento a lunedì.